ad alta voce. Maria Paiato legge Gli ultimi anni di Clelia Trotti, di Giorgio Bassani. Invasa dalla nebbia, piazza Santa Maria in Vado gli si aprì a un tratto dinanzi. Con la scura facciata della chiesa da un lato, il buio varco di via Scandiana di fronte, al centro la fontanella, assediata da donne parlottanti, misere bottegucce e casupole tutte attorno alle quali uscivano, insieme con deboli luci e odori di caldarroste e di castagnaccio, suoni lievi e diversi. Una incudine battuta senza forza, un pianto sommesso di bambino, una buonanotte e un arrivederci, scambiati fra due uomini di età in fondo a un portico invisibile, un tintinnio di bicchieri. Lo sguardo gli corse subito a sinistra, ad una piccola vetrina illuminata un poco più intensamente. Rovigatti era là, seduto al suo deschetto. Oltre la lastra appannata della vetrina ne distingueva appena la sagoma familiare. E mentre si dirigeva da quella parte, accadde proprio come se lui fermo fosse l'immagine immutata del ciabattino di casa a venirgli incontro attraverso la nebbia. Entrò, si levò il cappello, offrì la mano a Rovigatti al di sopra del deschetto, gli si sedette di fronte, immediatamente ottenendo senza difficoltà alcuna l'indirizzo esatto e completo della maestra. Via Fondo Banchetto 36, presso Codecà. Ma poi si misero a parlare, di modo che anche quella sera rincasò che la cena era terminata da un pezzo. Al campanello di Via Fondo Banchetto 36 andò a suonare, trepidando, l'indomani stesso. E certo, se fosse stato ricevuto subito, se una signora grassa coi capelli pepe e sale e l'aria diffidente, la sorella, avrebbe poi spiegato Rovigatti asciutto, non si fosse presentata sull'uscio a dirgli che la maestra non era in casa, se lei, sempre lei, in grembiule di satin nero e il distintivo fascista puntato sul petto, non fosse riapparsa il giorno dopo a annunciargli che la maestra stava facendo lezione e che perciò non poteva ricevere nessuno, e il successivo che non stava bene, e l'altro ancora che era partita per Bologna e che non sarebbe stata di ritorno prima della settimana ventura, e così via per settimane e settimane, con ogni probabilità lui e Rovigatti non avrebbero avuto modo di diventare amici, come in effetti diventarono. Lui, per la verità, aveva capito fin dal primo momento che gli sarebbe toccato fare anticamera a Santa Maria in Vado. Per quanto tempo, però, si era chiesto. Lo aveva saputo Clelia Trotti dei suoi tentativi di conoscerla. La sorella, sposata a Codecà, glielo aveva riferito che lui passava da casa quasi ogni giorno. Tutte le volte premeva il bottone del campanello col cuore che gli batteva e ogni volta la sua delusione si rinnovava. Respinto, ripiegava allora in piazza Santa Maria in Vado, lontana non più di 300 metri. La porta a vetri di Rovigatti non l'avrebbe mai trovata chiusa, poteva contarci. Bastava che la scostasse con due dita ed ecco sempre lì dietro il ciabattino in persona, col suo ciuffo di capelli corvini che gli ricadevano ancora giovanilmente al lato della fronte pallida, gremita verso le tempie di puntini neri, col suo sorriso, coi suoi occhi scuri come febbricitanti che lo guardavano di sotto in su. «Buonasera, signorino Bruno, come va?» diceva Rovigatti. «Venga, venga ben dentro, si accomodi!» E a lui non pareva vero di accomodarsi. Parlavano talora fino alle 9 passate e intanto, seduto sul panchetto di contro, Bruno osservava il ciabattino lavorare. Arrotolati gli spaghi attorno ai palmi, non meno duri del cuoio da cui aveva ritagliato la forma di una suola, Rovigatti li tirava a sé con energia misurata. Serbava perennemente in bocca una manciata di piccoli chiodi, e la sua lingua e le sue labbra erano mirabili di prontezza e precisione nel restituirli via via alla luce secondo le occorrenze. Tenendo ben salda fra le ginocchia strette a morsa una calzatura, vi batteva sopra il martello con automatismo instancabile. «Com'era bravo e sicuro», pensava Bruno. «Quanta forza, quanta coscienza di sé sembrava ricavare dalla stessa fatica manuale. Trafficare con le sue grandi mani annerite, incredibilmente callose, non gli riusciva d'impaccio nemmeno quando conversava, anzi, un chiodo ficcato nello spessore del cuoio con un solo colpo di martello pareva a volte servirgli meglio di qualsiasi ragionamento. Eppure, che cosa c'era ancora a separarli? Gli accadeva spesso di chiedersi. Che cosa gli impediva di ottenere da lui confidenza piena e assoluta? La diversità di classe, forse? Possibile? A parlargli male del fascismo, infatti, non si trattava in fondo che di un espediente per cercare di tirarlo dalla propria parte e soprattutto per ottenere che interponesse i suoi uffici affinché il regno di Clelia Trotti gli fosse dischiuso un po' prima di quanto era stato decretato. Poteva accadere che si limitasse ad ascoltare, oppure che rispondesse con freddezza, in tono esageratamente obiettivo. «Ma no, non direi», arrivò a ribattere una sera, previa una rapida sbirciata di controllo fuori. «Ma no, non direi, del buono ne hanno fatto anche i fascisti». Trionfava, evidentemente. E non soltanto perché il signorino Bruno, il figlio di quei signori di via Madama, ai quali da quasi 20 anni lui risuolava le scarpe, fosse venuto a fargli visita, ma anche perché un attimo fa aveva potuto prendersi il lusso di riconoscere al comune avversario qualche piccolo merito. «Non era un signore lui», aveva l'aria di dire. «Dalla parte dei poveri, dei perseguitati, degli oppressi, Cesare Rovigatti ci era nato e cresciuto. E dunque? Soltanto perché Cesare Rovigatti non era che un ciabattino, si pretendeva adesso da lui ottuso rancore, odio cieco e indiscriminato? Ah no, troppo comodo. Finito ormai il tempo nel quale i ricchi, i potenti, potevano servirsi del popolo lavoratore come di massa di manovra, riservando a se stesso il monopolio dei sentimenti elevati. Basta con gli equivoci. Che se qualcuno invece si fosse illuso proprio adesso di ricominciare coi vecchi trucchi del passato, affidando alla classe operaia il nobile compito di cavare dal fuoco castagne che non la riguardavano, tanto peggio in tal caso per questo qualcuno». Alla politica sembrava preferire di gran lunga altri argomenti. La letteratura, per esempio. «Piaceva a Bruno Victor Hugo?» domandava. «Che libro insuperabile, il 93. E i Miserabili? E l'uomo che ride? E i lavoratori del mare?» Sebbene su un piano molto inferiore, nell'Italia dell'Ottocento il solo Francesco Domenico Guerrazzi aveva fatto qualcosa di simile come romanzi. «E tuttavia, nell'insieme, quale disastro la letteratura italiana a voler considerarla dal punto di vista del proletario, tenendo conto del grado di istruzione a cui il proletariato può aspirare nel nostro paese. Fra i poeti, in fondo, non restava che Dante, il più gran poeta del mondo. Quelli venuti dopo, invece che per il popolo, avevano sempre scritto per i signori, il Petrarca, l'Ariosto, il Tasso, l'Alfieri, sì, anche l'Alfieri, il Foscolo, tutta roba per una elite. Quanto poi ai Promessi Sposi, troppo odore di sacristia, troppa reazione. Ma se uno aspirava a leggere qualcos'altro di degno, modesto magari, ma degno, bisognava che saltasse a pie pari fino al Carducci del Canto dell'Amore, allo Stecchetti di certe invettive sociali. Ma a proposito, adesso, nel Novecento, A parte quel degenerato di D'Annunzio, a parte il Pascoli, com'è che andavano le cose da noi in fatto di letteratura? Lui purtroppo non disponeva del tempo necessario per tenersi al corrente. Chiudendo alle 7, la biblioteca comunale non consentiva a nessun lavoratore di approfittare nel corso delle ore serali di quel pubblico servizio. Ma il signorino Bruno non era nelle sue condizioni. Quantunque anche lui, come israelita, la biblioteca comunale non potesse più frequentarla, ciò non di meno insegnava già nella scuola media israelitica di via Vigna Tagliata e dunque poteva considerarsi ormai un professore. Ebbene lui, il signorino Bruno, istruito com'era e di sicuro informato di ogni novità, credeva che ancora ce ne fossero oggi in Italia di buoni scrittori. Preso all'improvviso da un senso profondo di inutilità come di impotenza, Bruno taceva. «In questo campo sarei pronto a scommetterci sopra», concludeva Rovigatti scuotendo il capo. «Oggi non si fa più niente di bello, di utile». Ma l'argomento che più metteva Rovigatti a suo agio era quello in fondo del proprio mestiere. «Il suo era un mestiere umile», diceva. Anzi, umilissimo. Nessuno più di lui ne era persuaso. Grazie ad esso, però, non soltanto aveva potuto sbarcare decorosamente il lunario fino da ragazzo, ma resistere senza mai piegare la schiena durante tutti gli anni della dittatura. E poi che cosa credeva il signorino Bruno? Che fare il calzolaio non presentasse dei lati interessanti? Qualsiasi attività umana ne presenta, basta esercitarla con passione, riuscire a conoscerla nei suoi segreti. Parlava a questo punto senza più la minima acredine e Bruno, ascoltandolo e dimenticando a poco la propria tristezza, finiva col sentirsi quasi felice. In mano sua, una scarpa scalcagnata diventava sempre qualcosa di vivo. Dal modo come un cliente aveva sbucciato una punta, consumato un tacco, deformato una tomaia, Rovigatti sapeva risalire con intuito infallibile al carattere di quel tale. «Da questo signore, vede? Sarà piuttosto difficile farsi pagare», diceva per esempio, maneggiando certi neri scarpini di coppale, strettissimi, che parevano nuovi, e invece nascondevano sotto le punte affilate segni non lievi di consunzione. E la cautela con la quale li porgeva Bruno di là dal deschetto, allo scopo che lui, il signorino Bruno, li esaminasse con l'interesse che meritavano, individuava perfettamente il proprietario di quegli oggetti, che era appunto Edelweiss Fegnagnani, niente meno, uno dei più noti sfatti della città. «E tu, bella bionda, sta ben attenta a dove corri», mormorava con un sogghigno di simpatia, passando il pollice calloso attorno al tacco altissimo, aguzzo come un pugnale, di una scarpetta femminile di pelle di coccodrillo, che una camminata energica, esuberante, vittoriosa, aveva fortemente slabbrato ai margini. Una sera fece vedere a Bruno, fra le altre, anche le scarpe dell'onorevole Bottecchiari, il principe del nostro foro. Disse proprio così, non senza sarcasmo. «Avrà i suoi difetti, si capisce», soggiunse dopo qualche istante con occhi ardenti di zelo combattuto, di tenace fedeltà. «Ma è una persona di cui, se Dio vuole, ci si può ancora fidare. Cosa importa se si è imborghesito? Guadagna e molto. Ha una bella casa, una bella moglie. Bella una volta, naturalmente. I suoi 50 li ha accumulati anche lei. Con la sua intelligenza, con le sue doti di oratore, perfino i fascisti lo rispettano, gli fanno la corte. L'anno passato volevano addirittura dargli la tessera. Ma sa che cosa gli ha detto lui? Gliel'ha sbattuta sul muso». E non smetteva, frattanto, di rigirare fra le mani le scarpe dell'onorevole Bottecchiari. Un paio di scarpe marrone dalla punta quadrata. Le scarpe di un uomo sanguigno, ottimista, dal fisico di oltre un quintale, a fianco di cui aveva militato da giovane nelle file del Partito Socialista Italiano di Giacomo Matteotti, di Filippo Turati e di Anna Kuliscioff, e insieme col quale, nel 24, era stato aggredito nel salone da basso della cooperativa di consumo dei ferrotranvieri, ambedue poi salvandosi per puro miracolo da una uscita secondaria. Accennò col mento a fuori nella direzione di via Fondo Banchetto. Né lui né gli amici di una volta, continuò, si incontravano più con l'onorevole Bottecchiari da quasi 20 anni, questo era vero. Nemmeno una settimana fa, tuttavia, vistolo passare in senso contrario al suo, lungo l'altro marciapiede di Giovecca, dalla parte opposta della barricata, pensò Bruno. E come non mai, di colpo, si sentì solidale con Rovigatti, con Clelia Trotti e con tutta la povera gente tradita e dimenticata di città e di campagna che immaginava dietro di loro, felice e grato di essere con loro ormai e per sempre. Nemmeno una settimana fa l'onorevole, gioviale e alla mano come d'abitudine, gli aveva gridato alzando un braccio e agitandolo sopra la testa: «Ciao Rovigatti!» Un bel giorno la porta della casa di via Fondo Banchetto si aprì, senza che sulla soglia apparisse la tozza figura consueta della signora Codecà. Doveva succedere. In qualsiasi favola che si rispetti, potevano essere le 3:30 del pomeriggio. C'era sul serio qualcosa di irreale nel silenzio della contrada, completamente deserta. È raro che la vicenda non si concluda con la sparizione del mostro o con la sua metamorfosi. D'un tratto l'incantesimo si era spezzato. La signora Codecà era scomparsa. Ebbene, chi poteva mai essere se non Clelia Trotti, la persona venuta ad aprire in sua vece? Era certo lei, si diceva Bruno. Non poteva essere che lei, la donnetta rinsecchita e trasandata, la specie di beghina di cui parlava la gente. Per sincerarsene bastava guardarle gli occhi. Erano tuttora gli occhi stupendi della libera, ardita fanciulla, emula di Anna Kuliscioff, dell'impetuosa eroina della classe operaia che l'onorevole Bottecchiari aveva amato da giovane. Spogliatasi della buccia del drago, restituita per miracolo alle sue vere fattezze, anche Clelia Trotti, adesso, proprio come le principesse delle favole, sorrideva dolcemente del giovane fermo sul ciottolato, dinanzi alla sua porta, della sua aria sorpresa, perplessa. A questo punto sarebbe stato sufficiente un «entri, venga avanti, so già per quale motivo lei è qui». E la favola, col piccolo uscio che adagio si richiudeva alle loro spalle contro la quiete ovattata di via Fondo Banchetto, avrebbe avuto un compimento esatto, impeccabile. Viceversa, no. La frase non fu pronunciata. Quel dolce sorriso, in certo modo smentito del resto da una espressione palesemente indagatrice dello sguardo azzurrino, era soltanto interrogativo. Domandava: chi è lei? Che cosa vuole? Di modo che, per una volta almeno, non fu difficile a Bruno rendersi conto, comprendere. Era chiaro, pensò. Il suo nome, a Clelia Trotti, nessuno finora l'aveva mai fatto, né la signora Codecà, né lo stesso Rovigatti. Occorse quindi, attraverso la soglia ancora vietata, dichiarare nome e cognome, Bruno e Lattes, in tutte sillabe. Tanto bastò in ogni caso, perché allo stupore che subito si dipinse sul volto della Trotti, autentico stupore e insieme abbandono fidente, mentre la punta dell'iride chiara veniva come sommersa da un'onda di tristezza generosa, la realtà cominciasse a trovare dimensioni e contorni adeguati. «Bada che lei è sorvegliata», aveva detto l'onorevole Bottecchiari, riducendo la voce a un bisbiglio. Era alla polizia, all'ovra che si riferiva. ma una volta di più le cose, a considerarle da vicino, risultarono diverse. «Venga, che andiamo a parlare nel tinello», sussurrò la vecchia maestra, dopo che ebbe fatto passare Bruno nell'andito d'ingresso ed ebbe chiuso la porta di strada. Ora lo precedeva, in punta di piedi, lungo un buio corridoietto umidiccio. E così, andandole lui dietro e cercando di non far rumore e contemporaneamente osservandola muoversi con tutta la circospezione della quale era capace, di nuovo gli riuscì facile indovinare. Clelia Trotti era sorvegliata soprattutto in casa. La signora Codecà e suo marito, la prima insegnante elementare di ruolo in pieno stato di servizio, il secondo cassiere alla Cassa Agricola, la roccaforte della borghesia agraria cittadina. Erano loro i veri carcerieri di Clelia Trotti. E Lovra? Lovra, lei, sapeva perfettamente quello che faceva. Abbandonando la sessantenne ammonita al controllo domestico dei due degni coniugi, persone costoro evidentemente di troppo buon senso per tollerare che l'incomoda congiunta e ospite ricevesse visite sospette, poteva limitarsi a comparire ogni tanto e nel frattempo schiacciare sonni più che tranquilli.